Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Avete presente quei film e telefilm, per citare la serie più famosa CSI, in cui un tecnico della scientifica prende una fotografia sfocatissima, ne ingrandisce un particolare infimo, preme un pulsante e magia compare il volto perfetto ad altissima definizione del criminale di turno. Naturalmente c'è molto di romanzato in tutto questo, ma mi sono sempre chiesto esattamente dove in queste ricostruzioni finisse la realtà e iniziasse la fantasia. E forse stasera scopriremo che questo confine, dopo tutto, è un po' più in là di quanto non si potrebbe pensare. Ne parliamo con Martino Yerian, che è fondatore di Amped. Amped è un'azienda nata nel 2008, specializzata appunto in elaborazione di immagini e filmati a scopo forense, che oggi lavora con molti reparti di polizia di vari paesi. Buonasera Yerian, intanto. Buonasera. Allora Yerian, ci sono delle immagini che sono quelle che vengono magari appunto recuperate, non so, dalle forze di polizia, e se ne parla tutti i giorni di questi temi sui telegiornali, e voi le elaborate. Che tipo di elaborazioni fate? Sì, fondamentalmente abbiamo un software che permette di migliorare immagini buie, immagini sfocate, voi perché un'automobile era in movimento o le impostazioni di una macchina fotografica erano sbagliate, immagini molto rumorose, fare calcoli di altezze, quanto identificare una persona grazie all'altezza da una fotografia, insomma, abbiamo circa un'ottantina di filtri per coprire diversi tipi di problematiche. Ecco, facciamo un esempio per tutti: per riconoscere una targa, sembra una cosa facile, ma per esempio l'automobile può essere messa molto inclinata, per cui la targa è quasi invisibile, si vede quasi di lato. Lì voi riuscite a ricostruire, a stirarla, per così dire, a ricostruire l'immagine in modo che sia leggibile, vero? Sì, sì, esatto, insomma, anche se l'angolo è molto accentuato, se abbiamo abbastanza pixel su cui lavorare, riusciamo comunque a simulare una visuale da un angolo frontale. Ecco, dicevo all'inizio che spesso invece in questi film si vedono delle cose pazzesche. Dove sono i limiti di queste tecniche? Diciamo che l'idea di fondo è: se nell'immagine o nel filmato che sto trattando c'è dell'informazione, ma è coperta anche da disturbi molto forti, io riesco a rimuovere con opportune procedure matematiche questi disturbi e a rendere questa informazione visibile e leggibile. Se invece questa informazione non c'è, non possiamo e non dobbiamo soprattutto aggiungere nuova informazione all'immagine. Pensiamo che col nostro lavoro una persona rischia di andare ingiustamente in galera perché abbiamo aggiunto informazione non presente nella prova originale. Il risultato, devo dire che comunque, basta dare un'occhiata al vostro sito, è comunque sorprendente, cioè ci sono alcune immagini in cui l'occhio veramente non riesce a vedere nulla, che sottoposte ad elaborazione poi svelano delle cose abbastanza sorprendenti, però appunto diciamo non è una regola generale, non è come si vede nei film. Ecco, a proposito poi di un altro tema, quello della manipolazione delle prove, per esempio se qualcuno vi fornisce un filmato manipolato ad arte perché voi tirate fuori certe informazioni, è possibile una cosa di questo genere? Sì, diciamo che l'altro aspetto fondamentale è valutare la genuinità dei dati su cui lavoriamo. La maggior parte delle prove che si presentano poi nell'ambito di un procedimento giudiziario necessitano di essere autenticate. Quindi la loro genuinità va valutata, e anche per questo esistono opportune procedure che mi permettono, principalmente di immagini ma anche da filmati, di capire se il filmato è originale, se è stato modificato con insomma i vari software disponibili ormai a chiunque, e cosa molto interessante, fare quella che si chiama camera ballistics, ossia io riesco a verificare se il dispositivo che ha scattato una foto è il dispositivo in mano a un certo soggetto, non solo il modello ma lo specifico esemplare, perché ogni telefonino, ogni macchina fotografica imprime in tutte le immagini che genera una specie di impronta digitale del sensore. Cioè i sensori non sono tutti perfettamente uguali, quindi analizzando nell'estremo dettaglio si riesce a capire se è stata scattata proprio da quella singola macchina fotografica. È questo il punto? Esattamente. Con chi state lavorando oggi? Ma diciamo principalmente con laboratori centrali delle forze dell'ordine in più di 40 paesi. Mm. Come è nata l'idea? Questa idea nasce con la mia tesi di laurea che ho fatto in collaborazione con l'Università di Parma, in cui ci siamo resi conto che c'erano molti algoritmi disponibili alla comunità scientifica, ma non fruibili dell'utilizzatore finale. Per cui, oltre a mettere assieme tutti questi algoritmi in una sola piattaforma software, abbiamo anche inventato alcuni specifici per questo tipo di applicazioni. Grazie, Yerian. Grazie a voi. Ci fermiamo qui allora, diamo appuntamento a tutti voi domani sera, solita ora. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.